Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati si parlerà della velocità silenziosa, di vite intrecciate sin dall'infanzia, intorno all'amore per la bicicletta. Lo stesso amore che condurrà due giovani ragazzi su strade diverse. La bicicletta lascia sempre impresso il suo marchio poetico. Lo stesso farà con i nostri due protagonisti, che incroceranno le loro vite in un incontro che li segnerà per sempre. Ma dove ci troviamo? È il 25 settembre del 1925. Siamo in Francia, precisamente al Vélodrome d'Hiver a Parigi, dove Costante Girardengo, campionissimo del ciclismo italiano di quegli anni, si appresta a correre una gara contro i cugini d'Oltralpe. A corso a vederlo c'è l'altro protagonista di oggi, che senza curarsi della polizia che gli sta alle calcagna, decide comunque di andare a fare il tifo per il suo idolo. Anche lui, come Girardengo, è di Novi Ligure. Ma facciamo un passo indietro. Siamo nel 1910. L'Italia è un paese giovane e si appresta a farsi attraversare da due guerre, tra fame, miseria e nuove ideologie politiche. Anche i nostri due protagonisti sono fanciulli e ancora non sanno a cosa li porterà la loro amicizia, che comincerà qualche anno più tardi. Siamo a Novi Ligure, città di frontiera, importante scalo ferroviario tra Basso Piemonte e Alta Liguria. La posizione geografica strategica, gli ampi spazi, le nuove infrastrutture che garantiscono il trasferimento delle merci prodotte, ne favoriscono lo sviluppo industriale. Novi è quindi la città dell'Ilva, poi Talsider, dei cotonifici, dei moti operai e degli attriti tra rossi e fascisti, dove i ricchi e i poveri stanno sotto lo stesso cielo plumbeo e nello stesso clima rigido e nebbioso. Unico vero simbolo di democrazia, la bicicletta, che accorcia le distanze fra campagna e città, e i miti che da lì a poco cresceranno intorno ad essa. Girardengo, Girardengo, delle folle beniamine, e la gente laudente, che fa piede al tuo cammino, tu del ciclo sei l'atto e la gloria, te compagna fedele la vittoria, Girardengo. Girardengo, campionissimo del mondo intero. Quella che avete sentito è la prima canzone realizzata per celebrare uno dei due protagonisti di quest'oggi, Costante Girardengo, denominato nel 1919 da Emilio Colombo sulla Gazzetta dello Sport il campionissimo. Ne ascoltiamo la testimonianza diretta dalle cronache dell'epoca. Sono nato a Novi Ligure il 18 marzo del 1893. Nel 19 avevo 26 anni e andavo forte e vincevo quasi tutto. Colombo aveva simpatia per me e gli piacevano le parole grosse. Trovò quel campionissimo, che poi fu usato per Coppi e per Eddy Merckx, ma il primo, sono stato io. Siamo agli albori del ciclismo, che prima di essere uno sport è una necessità sociale, come recita un manuale del 1910. La bicicletta ha l'amore di tutti perché è cosa di tutti. Il mito del ciclismo è vero, genuino, è fatto di eroi che si possono toccare. Queste le parole di Indro Montanelli. Costante Girardengo fu il mio ultimo idolo prima che l'adolescenza giungesse a spazzare dal mio cielo, che ne rimase disperatamente vuoto, ogni epica traccia di eroi, nei sogni. Nelle fantasie della mia generazione, Girardengo viene nel tempo subito dopo Testa di Pietra e il Corsaro Nero, sui quali aveva insieme un vantaggio e uno svantaggio, quello di essere vero e di poterlo, i pochi fortunati, toccare. È un altro ciclismo rispetto a quello che conosciamo noi oggi, quello che crea e distrugge i propri miti soprattutto attraverso la prepotenza mediatica e lo avvelena col doping. Là c'erano solo volontà, sofferenza e costanza a permettere le imprese eroiche in sella a quelle biciclette aspre e dure come la storia che attraversano. Il primo Giro d'Italia è del 1909, le tappe sono solo 8, ma sono molto lunghe. La prima in assoluto è la Milano-Bologna, segnata dalla caduta e dall'abbandono del favorito, Lucien Mazan, detto Petit Breton. Partono in 127 e arrivano in 49. Luigi Ganna, professione muratore, è il vincitore della prima edizione. Partito da Milano alle 2.53 del mattino del 13 maggio, taglia il traguardo il 30 dello stesso mese, con una media di 27,26 km, percorrendo un totale di 2.447,9 km. Appena dopo essere arrivato a Milano, alla richiesta di un parere a caldo sulla gara, annuncerà candidamente. Mi brucia tanto il culo. Sono uomini autentici, coraggiosi. Sono gli anni del manifesto futurista, dove Marinetti canta l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerarietà, e sostiene che il mondo si sia arricchito di una nuova bellezza, quella della velocità, del progresso. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Ed è proprio la velocità, anche se quella silenziosa della bicicletta e non quella ruggente dell'automobile, che caratterizza i nostri due protagonisti, il cui incontro, come vedremo più avanti, darà una sterzata al destino di entrambi. E non servono le taglie, non basta il coraggio. Santo il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge. Cercavi giustizia, ma trovasti la legge. Ma chi sono i due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta? Uno, come abbiamo già visto, è Costante Girardengo, quinto di sette figli, nato a Novi Ligure nel 1893. Il campionissimo, detto Lomin, per via della sua bassa statura, quella che devono avere i ciclisti, quelli che corrono per amore. L'altro è il compaesano Sante Decimo Pollastri, classe 1899, il bandito, che si conquista fin da bambino l'appellativo di Rangugnin, l'attaccabrighe. All'anagrafe è Pollastri, sul certificato di battesimo è Pollastro. Forse un errore o una profezia. Come ebbe a dichiarare, lui infatti preferiva firmarsi Pollastro, perché la O gli veniva meglio della I, quasi a indicare l'impossibilità di seguire una strada retta, incastrato com'era nel circolo vizioso del suo destino. Quel destino che lo fece correre per rabbia. Ma i due alla bicicletta chiedono cose diverse. Per gira, come lo chiamavano sul giornale per esigenze di spazio nei titoli, la bicicletta è vita, vuole farne una professione. Anche per Sante la bicicletta è vita, non per camparci a suon di vittorie, ma per fuggire e sopravvivere alla polizia che lo bracca ad ogni rapina. La bicicletta è una linea retta con l'infanzia di entrambi, con le loro origini. Ed è a partire dalle origini di quell'amore che si possono capire gli intrecci del loro destino. Il destino del campione e del suo più grande tifoso, il bandito. Difficile rintracciare sonori dell'epoca, ma abbiamo voluto comunque una testimonianza diretta e così ci siamo affidati alla voce di un appassionato di bicicletta e in particolar modo di Girardengo, anche per una questione di affetti familiari, Claudio Bisio. Girardengo, perché io sono Bisio, Claudio, perché io devo parlare di Girardengo? Per un paio di motivi, forse. Uno, che sono nato a Novi Ligure, come lui. E due, addirittura, cosa che nessuno sa, e la dico quasi in anteprima, anche perché nessuno me l'aveva mai chiesta prima, è che mio nonno è stato il gregario di Girardengo. Così mi raccontava, lui andava in bicicletta, quindi l'amore per la bicicletta me l'ha passato appunto mio nonno, da parte materna. E da dove nasce invece l'amore per la bicicletta di Girardengo? È il quinto di sette figli, in una Novi Ligure dove sfamare una famiglia numerosa non è cosa semplice. Qualcuno si dà alla malavita, come Sante. Qualcun altro cerca la forza di farcela con le proprie gambe, è il caso di dirlo, buttandosi in un nuovo sport che appassiona gli italiani, il ciclismo. La ginnastica è passata di moda e il calcio non si è ancora imposto al grande pubblico. I giornali sportivi parlano di corridori, di opportunità, e di domenica in domenica in ogni paese c'è la gara per i ragazzi che sognano di emulare i grandi. Il ciclismo in questi anni è soprattutto una fonte di guadagno, poi una passione. È la povertà che stimola il talento. Tutto comincia nel 1908, in una sfida improbabile con un altro grande dell'epoca, Dorando Petri, l'uomo per cui D'Annunzio conia il termine maratoneta e che viene squalificato perché lo aiutano a tagliare il traguardo nelle Olimpiadi di Londra di quell'anno. Al suo ritorno in patria, Dorando decide di guadagnarsi dei soldi sfidando i ciclisti a batterlo nei giri in piazza. Girardengo, allora quindicenne, ci prova ed è uno dei pochi a vincere. Quelle 2 lire guadagnate in sella alla bicicletta sono il primo guadagno della sua vita. Il padre non è comunque contento della sua passione per la bici, tanto che un giorno gliela scaraventa via dalla finestra. Ma Costante non si dà per vinto. Come dice il suo nome, ci mette la determinazione di chissà che ce la può fare, passo dopo passo. Anzi, pedalata dopo pedalata, vittoria dopo vittoria. A 18 anni ha già da parte un bel gruzzoletto, grazie alle vittorie accumulate in sella alla bici. La prima la compra a 17 anni e di un artigiano la pagherà a rate. Così può cominciare a gareggiare sul serio, come ricorda in un'intervista. L'artigiano era di Alessandria. Io mi iscrivevo alle corse per gli indipendenti e lui mi dava dei soldi al chilometro. 6 soldi, si capisce, solo in caso di vittorie. 26 vittorie e l'uomo mi mollò, gli costavo troppo, l'avrei mandato in malora. Il debutto nel ciclismo professionista arriva nel 1913, quando partecipa e vince al campionato italiano ad Alessandria. Per fare quella gara chiede una licenza. Stava facendo il militare a Verona e al suo ritorno in caserma lo puniscono con 15 giorni di prigione. Ma a proposito di prigione, cosa sta succedendo a Sante, il bandito tifoso che condivide con Girardengo la passione per la bici? Mentre Gira sta costruendo sulla bicicletta la sua fortuna per riscattarsi dalla miseria, Sante sceglie di combattere la fame con furti e rapine per i quali è regolarmente punito. A 11 anni è un ladro bambino e a 17 è già un pregiudicato. Nel 1916, all'età di 23 anni, si dà ai furti in villa, aggregandosi a un gruppo di ladri. Quando il giudice gli chiede perché, lui risponderà: «Non avevo denaro. Per di più ero disoccupato. E presentandosi l'occasione di far quattrini, se vogliamo non troppo onestamente, accettai l'invito di andare a rubare. E andai». Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins. A bicicletta. Lo scalo ferroviario di Novi Ligure è un luogo provvidenziale per chi non ha da mangiare e se lo vuole procurare con facilità. O come disse Pollastro, non troppo onestamente. Si tratta di saltare di corsa sui treni merci per la Svizzera, che a San Bovo rallentano per lasciare il passo a quelli passeggeri sulla Milano-Piacenza, come racconta in tribunale nella sua deposizione. Costruimmo una specie di imbracatura che si fissava alla vita. Un gancio mobile consentiva di attaccarsi alla maniglia e spalancare il portellone senza pericolo di cadere. La bretella di cuoio si agganciava al convoglio e il gioco era fatto. Un complice alla stazione di Genova o San Pier d'Arena si occupava di segnare quale vagone era da assaltare e le bande di ragazzotti aspettavano solo il comando di Sante, che divideva poi con i ragazzi il bottino, generoso come un Robin Hood. Ma cosa ha portato sulla cattiva strada Sante? Cosa l'ha fatto diventare il bandito anarchico più temuto di quegli anni? Sono state quindi le cattive compagnie, come ripeterà il suo avvocato in tribunale? Fu l'antica miseria, come dice De Gregori, o c'è anche dell'altro? La storia si mescola alla leggenda e sembra sia stata addirittura una caramella a metterlo contro il fascismo, dando così una colorazione politica alle sue imprese. Una sera di gennaio del 1922, uscito dal bar centrale di Novi, mette in bocca una caramella al rabarbaro e la sputa subito dopo perché terribilmente amara. Passano di lì 3 camicie nere e vedono in quel gesto un atto di ribellione al regime. Non c'è stato il tempo di dare spiegazioni, che Sante è a terra, immobilizzato e malmenato. Negli atti del processo si descrive così. Io non sono né fascista né antifascista. Ho le mie idee. Mi trovai per caso coinvolto in avvenimenti più grandi di me, che finirono per schiacciarmi. Il Pollastro, nemico pubblico numero 1, nacque una sera sulla soglia del bar centrale a Novi Ligure. Dopo la condanna in contumacia, dovetti fuggire, tenermi nascosto alla polizia che mi dava la caccia. E quel piccolo sassolino determinò la mia valanga. All'improvviso mi trovai ad essere irregolare e dopo che mi ero incamminato su quella strada la percorsi fino in fondo. Io credo che un passo sbagliato possa decidere il destino di un uomo. Costante Girardengo, l'idolo di molti, ma soprattutto di Sante, cosa sta facendo prima di incrociare il suo destino con il bandito? Nel 1918 comincia la fase d'oro dell'omino di Novi con la vittoria della Milano-Sanremo. Le vittorie si susseguono fino a valergli l'anno successivo il titolo di campionissimo. Si sente a casa quando è sulla sua bicicletta, si sente a casa quando pedala su quelle strade così familiari che lo rendono più determinato e gli parlano una lingua che sa di riscatto. Siamo in 10, 12, poco oltre Tortona, strade brutte. La banchina invece è accettabile, ma gli avversari me ne impediscono l'accesso. Mi arrabbio e tutto solo in mezzo alla strada, attacco. Eppure mi lancio. Attraverso la mia Novi in solitudine, scalo il Turchino ammantato di neve. Scendo a precipizio su Voltri, aumentando sempre più il ritmo. Alla fine ho trionfato con 13 minuti sul secondo. Belloni. Sono passati al comando, ma inutilmente. C'è qualcosa di incomprensibile, di miracoloso. In poche pedalate la maglia rosa ha colmato la distanza e supera in questo momento il gruppetto degli assi. Di Milano-Sanremo ne disputerà 17 e ne vincerà ben 6. Una delle gare più esaltanti per Costante, che contribuirà a far nascere il mito. Solo nel 1976 Eddy Merckx batterà questo record. Tutti gli anni, in vista della Milano-Sanremo, mi sento rinascere e più ne corro, più mi viene voglia di correre. Senza dubbio è la corsa che amo di più. Mi viene facile fare delle belle corse su quel tracciato. Da Novi in poi conosco tutte le strade. Sono quelle su cui mi sono allenato sin da quando ho imparato ad andare in bicicletta. Le strade dove anche Claudio Bisio andava col nonno, gregario di Costante Girardengo. Mi portava nelle stradine dove facevano anche l'allenamento con Girardengo, la Catagnetta, che era un posto un po' fuori Novi, dove poi mi ricordo mi aveva costruito una fionda. Io andavo a sparare agli spaventapasseri. Una volta ho tirato così forte che ho beccato il parabrezza di una macchina. Queste sono cose che non c'entrano con Girardengo. Ma con Girardengo c'entrano le vittorie. Il campionissimo vince anche 2 giri d'Italia, 3 giri di Lombardia, per un totale di 128 successi su strada e 965 in pista. Gli manca però un successo fuori dai confini dell'Italia, soprattutto nella vicina Francia. Henri Desgrange, patron del Tour, lo stuzzicherà più di una volta, dicendo che ha paura di confrontarsi col suo corridore di punta, Henri Pélissier. Ma Gira non molla, anzi rilancia. Così scrive una lettera alla Gazzetta dello Sport che resterà nella storia del ciclismo, sfidando tutti i ciclisti del mondo. Invito tutti i corridori del mondo a incontrarsi con me in una corsa a cronometro di 300 km, ad esempio sul percorso Milano-Sanremo. Se si ritiene che le strade italiane mi siano favorevoli, io accetto anche di correre su strade in suolo neutro, da 300 a 600 km, che ci siano anche delle salite tipo Galbier o Isoard. Posta per ciascun incontro 50.000 lire. Da oggi sono pronto. Sarà così possibile stabilire, senza chiacchiere, se l'Italia possiede degli uomini degni dei grandi successi internazionali senza bisogno di preventivi collaudi. Il provocatore Desgrange accetta la sfida e la gara col suo uomo di punta si corre il giorno di Natale del 1923 al velodromo d'inverno di Parigi, lo stesso luogo dove Gira avrà qualche anno più tardi un appuntamento col suo destino. L'italiano ne esce trionfante, umiliando Henri Pélissier. Si sta preparando il terreno per la proverbiale diatriba tra Francia e Italia, che caratterizzerà il ciclismo a venire. È il 1924 e Walber, costruttore di gomme francese, quell'anno è invitato al Gran Premio che porta il suo nome anche l'omino di Novi e l'occasione di fargliela vedere ai cugini d'Oltralpe. E così sarà. Il campionissimo vince su tutti. Henri Pélissier dichiara: «Oggi Girardengo è andato più forte di me». Ma Parigi è anche la città scelta dall'altro protagonista della puntata di oggi per fuggire alla legge dopo il suo primo omicidio. È il 14 luglio del 1922, data del battesimo del bandito, e a Tortona si consuma il delitto casalegno. Casalegno è un ex maresciallo dei carabinieri che fa il portavalori per la filiale di Tortona della Banca Agricola Italiana. È in sella alla sua bicicletta quando viene aggredito da 3 malviventi che gli sottraggono la borsa di cerata nera dove si trovavano 37.986 lire e 31 centesimi. Tenta di reagire, ma viene freddato. I 3 scappano e nella fretta uno di loro monta in sella la bicicletta del defunto, lasciando a terra la propria, una Maino appena acquistata, prezioso indizio per la polizia. La bicicletta è quindi la firma del delitto. Verranno presi e puniti 2 presunti complici, ma non l'omicida, Sante Pollastri. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Destini incrociati. Destini incrociati è arrivata a Parigi il 24 settembre del 1925, dove Sante Decimo Pollastro, il bandito di Novi Ligure accusato di vari delitti, vive la sua latitanza. E Costante Girardengo, il campionissimo del ciclismo, si appresta a correre una gara sfidando Pelissier a casa sua. Siamo al Vélodrome d'Hiver e da questo incontro il destino dei due si incrocerà definitivamente. Come si vive a Parigi in quegli anni? Sante si trova bene, non solo perché conosce la lingua, ma anche perché a Parigi si sono rifugiati molti esuli antifascisti. Si respira un clima di libertà. Sono anche gli anni delle cocotte, dell'evasione nei locali notturni, del charleston, delle entraîneuse. Per le donne cambia la moda, si scoprono un po' le gambe e la Gillette suggerisce loro di radersi le ascelle. Parigi diventa la capitale della trasgressione e i bistrò di Montparnasse si riempiono di artisti e intellettuali. Ma come avviene il contatto in quella Parigi fervente tra il bandito e il campione, incontro che segnerà entrambi per sempre? Un nome li unisce: Biagio Cavanna, detto Lumon per via della stazza, classe 1893 come Girardengo e novese anch'egli. Cavanna, dopo aver tentato come tutti nel borgo di affrancarsi dalla miseria attraverso lo sport, scopre di possedere un'altra dote, quella dello scopritore di talenti. Chi sei? Sono uno che vuole correre, signor Cavanna. Sì. È capace di mettere nella testa dei giovani il desiderio, spronandone il talento e facendone emergere le doti. Allenatore e massaggiatore di gira e poi anche di coppi, si trova ora a Parigi col campionissimo per la 6 giorni al Vélodrome d'Hiver. Cavanna conosce anche Sante. È affezionato a quel ragazzo di Novi. Lo ha incrociato varie volte sui binari a San Bovo insieme alla sua banda. Si dice che una volta l'abbia persino curato da un incidente avvenuto durante una delle scorribande sui vagoni merci. Sante è un campione a modo suo, ha coraggio, ha personalità. E in fondo, secondo Cavanna, non è un balordo, anche se da bandito ha certamente un punto debole, la sua passione per il ciclismo. Quel 24 settembre del 1925, Biagio Cavanna non ha dubbi. Tra il pubblico del veloce Sante ha corso a vedere il suo idolo. E lo scopre perché nell'aria a un certo punto si sente quel fischio. È il cifulò, un segnale inconfondibile per un novese che si trova fuori casa, il saluto tipico da compaesani. È un richiamo alle origini, alla terra aspra che ha dato ai nostri protagonisti destini differenti e che ora si trovano vicini. L'incontro tra il bandito e il campione avviene sotto le tribune. È Gira che chiede a Biagio Cavanna di presentarglielo, di poter scambiare due chiacchiere con Pollastro, l'altro famoso di Novi. Si troveranno anche l'indomani in un ristorante in Rue de la Boétie. E mentre Gira parlerà di Novi, dei ricordi d'infanzia, Sante parlerà di delitti e di uno in particolare, quello dell'ex maresciallo casalegno a Tortona, affidando al suo mito la verità, come ricorderà al processo. Dovrei farle una confidenza. C'è un certo Carrega e un certo Leggero che alla rapina di Tortona non parteciparono e sono stati incolpati ingiustamente. Lo dico a lei perché se dovessero uccidermi, a lei crederanno. Sante tiene all'amicizia. I due innocenti che marciscono in prigione ingiustamente sono della vecchia banda. Non meritano di essere in galera per un delitto che non hanno commesso. Ha una sua concezione di giustizia, ha le sue idee, Sante, e cerca in qualche modo di rimediare ai vecchi torti, coinvolgendo con quella confessione il campione. Nel dicembre del 1926, quando si sparge la falsa notizia che Sante si è suicidato, Gira parlerà ai carabinieri di quell'incontro al velò. Da quel giorno si intensificano le indagini sul bandito, la cui morte era stata messa in dubbio fin da subito, e grazie ad una cooperazione tra polizia francese e italiana, cosa alquanto strana per l'epoca, si arriva all'arresto. Alla guida dell'operazione c'è il vice questore Rizzo. Ma che periodo è per il nostro campione? Il 1926 è un anno funesto anche per la sua carriera, In seguito a una caduta al velodromo di Firenze si rompe polso e clavicola. Il polso gli procura molte noie e lo porta nel giro di pochi anni ad abbandonare il ciclismo. Così si sfoga con un giornalista. La maglia tricolore l'ho difesa sotto la pioggia, sotto la neve, per le salite estenuanti, per le pianure, sotto il solleone, contro gli schianti del cuore affaticato, contro gli infiacchimenti improvvisi delle gambe, rifiutandomi ogni svago ed ogni piacere della giovinezza, a denti stretti, imponendomi un regime di vita da monaco. Se mi dicessero divertiti, non saprei come si fa. E adesso, per una mano rimasta sotto a un manubrio in una caduta, non se ne parla più. Happy days but sad facing, heaven knows I'm on the case, oh, how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of your. Il 1928 è l'anno dell'ultima grande vittoria. Riesce a tagliare il traguardo della Milano-Sanremo davanti a Binda. Gira ha fatto 13 volte il giro del mondo, un mondo troppo piccolo, visto come è andata a finire al Velo d'Hiver, quando ha incontrato il suo più accanito tifoso, Sante Pollastro. Il 1928 è anche il primo anno che Sante non può seguire le corse dell'amico campione, il perché lo vedremo tra poco. Il vizio che fece cadere Sante forse sono le donne, forse il suo amore per il ciclismo, o forse è quel suo senso della giustizia che lo spinge a consegnare a Girardengo la verità sul delitto casalegno di Tortona. Devo dire, di Sante Pollastri non me l'ha mai raccontato mio nonno, questo devo essere onesto. Quindi ne sono venuto a conoscenza dopo la canzone di De Gregori, ovviamente, sentendo Girardengo, Pollastri e la storia, sono andato a documentarmi, ho scoperto che era tutto vero, che era esistito sto bandito, questo rapporto umano, questa amicizia molto interessante. Ahimè, mio nonno non c'era già più, non ho potuto chiedergli se fosse vero, cosa fosse stato vero, eccetera, eccetera. Beh, comunque che fosse vero, si sa, è cronaca, ci sono gli atti giudiziari, i processi e tutto quanto, anche la testimonianza di Girardengo stesso. Dopo le dichiarazioni di Gira, le indagini su Sante si fanno più fitte. La sua cattura avverrà il 10 agosto del 1927. Protagonista di quell'impresa è il vicequestore Rizzo. Rizzo si trova a Parigi, sulle orme di Sante, cercando di vivere e pensare come lui, per poterlo incastrare. Si traveste, frequenta luoghi e persone ambigue finché non si imbatte in una donna che dice di conoscere il feroce bandito, smentendo così la notizia del suo suicidio, quella a cui nessun bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere aveva creduto fin dall'inizio. Rizzo all'epoca ha 41 anni e ricorda le moderne figure di investigatore, dalla personalità forte, esuberante, attaccato alla missione che gli è stata assegnata e che vuole portare a termine con successo. Prepara infatti meticolosamente la cattura. Fa pedinare per giorni Pollastro dal suo fidato assistente, detto Maciste, fino ad incastrarlo all'uscita della metro. Siamo alla fermata di Place des Nations. È il 10 agosto del 1927 e sono le 3 del pomeriggio. Sante è ben vestito e al suo braccio c'è una donna bellissima. Sante ha solo 28 anni. Finisce lì la sua libertà. Mai più Velo d'Hiver, mai più Moulin Rouge, mai più Cocotte, mai più Paris. Sono 8 gli omicidi imputati a Pollastro e alla sua banda. In tribunale è elegante, ha belle mani, capelli lisciati dalla brillantina. Sono gli anni di Rodolfo Valentino e molte donne accorrono per vedere alla sbarra degli imputati il bandito buono, tradito proprio da una bella donna. Il suo avvocato francese è Henri Torré, già avvocato di anarchici e antifascisti. Viene condannato dalla corte parigina a 8 anni di lavori forzati. È trasferito oltre Alpe tra il 9 e l'11 agosto del 1929 e viene condannato all'ergastolo, scampando alla pena capitale. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Destini incrociati. A Destini Incrociati, oggi siamo alle prese con il campionissimo del ciclismo italiano, Costante Girardengo, e il bandito Sante Decimo Pollastro, che dopo l'incontro al Velo di Ver di Parigi quel settembre del 1925, cambia il suo destino per sempre. Nel giro di pochi anni, l'uno smette di vincere per una stupida caduta, l'altro di vivere in libertà per una debolezza, il ciclismo. Il rapporto tra il bandito e il campione comincia a incrinarsi a partire dal primo processo, quello di Milano, tra il 7 ottobre e il 20 novembre del 1929, dove Pollastro ritratta le confessioni e rimprovera Girardengo di essere stato impreciso nel riportare i fatti dell'omicidio di Tortona, che qualche anno prima gli aveva confessato al Velo di Ver. Pollastro non è più l'elegante bandito di Parigi, è un uomo provato dalla perdita della libertà. Ne parla anche col suo avvocato. Per me è finita. Più dell'ergastolo non possono infliggermi. Se mi togliessero la vita mi farebbero un piacere. Più di una pelle non ho. Sante ama la vita e vuole tornare a viverla in libertà. In galera non ci vuole morire, come dirà alla sorella che si è avvicinata alla sua gabbia in tribunale. Il 20 novembre arriva la sentenza dell'ergastolo e ai primi di dicembre del 1929 varca i cancelli del carcere di Santo Stefano a Ventotene, dove vi rimarrà sino al 1950. La sua mente in quegli anni è dedicata alla pianificazione della fuga. Il progetto dell'evasione, per lui, è un assaggio della libertà. Gli agenti hanno mille cose cui pensare. Noi ne abbiamo una sola: inventarci l'occasione per evadere. Ma nessuno è mai evaso da Santo Stefano. E perciò Sante sa che per ottenere quella libertà deve puntare solo sulla buona condotta e ottenere la grazia. Il suo destino lo mette di fronte a un cambio di rotta, una legge del contrappasso, per uscire purificato dalle scelte sbagliate che lo hanno condotto fin qui. Salverà una guardia. Ma di questo parleremo dopo. Eccoci al secondo processo, quello di Alessandria. Sono passati 2 anni dal primo di Milano e il 28 ottobre del 1931. E Sante porta il numero di matricola 1504 ricamato sulla tasca. Arriva in aula scortato dai carabinieri e anche mentre è nel suo gabbione ad assistere alla sua fine, è legato e marcato da 2 guardie. È lontano il tempo delle feste parigine, dei begli abiti e delle belle donne. Ora Sante è solo e se la deve vedere con i giudici, con gli avvocati, con i testimoni e con un passato che ormai gli si è cucito addosso troppo stretto, come le manette che gli legano i polsi. Mi fanno pagare un prezzo salato. Mi legano troppo stretto e mi fanno male. Di che cosa hanno paura? Hanno detto che voglio scappare, ma è una fantasia. L'aula è gremita di cronisti, di curiosi, di testimoni. Ci sono anche il vicequestore Rizzo, vero artefice della sua cattura a Parigi. E oggi c'è anche un test d'eccezione, Costante Girardengo, chiamato a testimoniare su quell'incontro al Velo di Ver, dove Sante gli fece la confessione sull'omicidio casalegno. I giornalisti non sono molto gentili con lui, forse perché è già cominciato il declino del campione e si sa che la fine di un mito è sempre dolorosa. O forse solo perché quell'antica conoscenza col bandito ha messo un alone alla personalità tipica degli eroi. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà. Una bici vuole fama e chilometri, una bici è una dama, falla vincere, falla ridere. A contribuire alla grazia per Sante Pollastri del 1959, la sua buona condotta, cristallizzata soprattutto in un evento che lo vede protagonista all'interno del carcere. Siamo a metà novembre del 1943, c'è la guerra e la mancanza assoluta di cibo rende aggressivi. Sante è a capo di una rivolta tra detenuti. All'interno dell'ammutinamento ci sono momenti di panico e di terrore. Sante chiede ai compagni di rispettare le guardie e arriva al punto di difenderne una. Salverà la vita all'agente De Feo, assalito da un prigioniero. La buona condotta è ora è tangibile. Guardie e banditi, vita e morte. La storia si ripete, ma adesso per riscattarlo. Nel 1948 c'è la prima richiesta di grazia. Nel novembre del 52 si ripetono le istanze. Nel 57 l'ultima istanza porta il guardasigilli dell'epoca a far visita al detenuto a Parma. Dopo averlo interrogato personalmente, dichiara di averne avuto un'ottima impressione. Il guardasigilli è Aldo Moro. Da marzo del 1959 la domanda di grazia è inquirinale e il 1 agosto il presidente Gronchi decreta la commutazione della pena inespiata. L'8 agosto Sante esce di prigione, assapora una nuova libertà. Fischiettando il cifulò, ritorna sulle strade di Novi. Il fischio esattamente, non ho il suono esatto, però ho una canzoncina che mi cantava mia nonna in novese, che forse può essere utile, che fa più o meno così. Io la canto in novese, è una filastrocca. Sai si vistu sur camilu a cavolat l'asinen, luga vai valanen tu di guellan l'urion tu stachen. Quanc l'estata sera vole l'agua ciò che l'urale, tira fuori la cadaina ma dan l'urion ugene. Oi lì, oi là, baci c'è in vatenacà, arrivederci Gigi, stasera andando a ca. Oi lì, oi là, baci c'è in vatenacà, arrivederci Gigi, stasera andando a ca. Ecco, se si visto sul Camillo, traduco se chi, per chi interessasse, se aveste visto il signor Camillo a cavola dell'asinen, a cavallo dell'asino. Lugavai valanen tu digo, aveva l'anello al dito, e l'anlöriu tu stachen. Anlöriu è orologio, e stachen è taschino. È così, sembra dislessia, ma è così, stachen è taschino. Quando è stata a Serravalle, quando è arrivato a Serravalle, scrivi, sarebbe poi Serravalle, a Serravalle, la guacia che l'urale, ha guardato che ore sono, tira fuori la cadaina, tira fuori la catena, perché gli orologi una volta erano al taschino con la catena, ma dal Leorio Nugenè, quindi ha perso l'orologio, gliel'ha rubato, che sia stato Sante Pollastri. E Girardengo? Il campione lascia la sua carriera nel 1936 e si mette a costruire biciclette. La fabbrica chiuderà i battenti l'anno dopo la sua morte, nel 1980. Fa il commissario tecnico per la nazionale e nel 1938 guida Bartali al successo del Tour de France. Da grande affarista, quello stesso anno strappa Coppi a Cavanna, il massaggiatore che fu anche il suo scopritore. Allora, Coppi! Ma che cosa vuol dire opzione? Ma niente, caro Coppi, opzione vuol dire che d'ora in avanti ti terremo d'occhio. E se corri bene, chissà, allora ti faremo un contratto. Giusto. Ascolta, signor Girardengo. Intanto paghiamo tutto noi, viaggi, corse, materiali, tutto. Sempre che metti una firma. Signor Cavanna dice che io non sono pronto per correre. Oh, se lo dice Cavanna, il mago, allora pazienza, Vorrà dire che ne cercheremo un altro. Un momento, monsieur Girardengo, non vada via, s'accomodi, si siede. Negli anni a seguire si gode il successo in un casale vicino a Novi e vive la sua vecchiaia in piena agiatezza. Anche se sotto al gabardin dei suoi abiti di buon taglio rimane il carattere del campagnolo che è scampato alla miseria per amore della bicicletta. I due si incontreranno un'ultima volta al Caffè Greco per stringersi la mano. Sante con reverenza nei confronti del suo idolo di sempre e Gira con rispetto per chi come lui è del borgo ma non ha avuto la sua stessa fortuna. Sono liberi tutti e due. Liberi dai traguardi, liberi dai delitti, dal passato, del quale conservano solo quell'immagine pura e intoccabile, impressa nella loro mente fin dall'infanzia, la bicicletta. Il campione ci lascia il 9 febbraio del 1978. Solo un anno più tardi si spegne l'amico bandito, una domenica mattina di fine aprile. Nel 1990 Luigi Grechi, figlio dell'illustre bibliotecario Giorgio De Gregori, fratello di Francesco, scriverà testo e musica della celebre canzone Il bandito e il campione, portata a successo nel 93 nell'omonimo album del fratello. Venderà oltre 500.000 copie. A seguito di questo, a Luigi viene assegnata la targa per la migliore canzone dell'anno al premio Tenco. E pensare che la stessa canzone eseguita da Grechi era stata fino ad allora rifiutata da diverse etichette. Nel 1994 Grechi ha finalmente la possibilità di pubblicare la sua versione de Il bandito e il campione. Ma questa è un'altra storia. Per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce. E chi sarà il campione? Già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti insegue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, e dietro quella curva è sempre più distante. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.